A volte è meglio tacere. Leggo nella Bibbia in Proverbi 10:19. Nella moltitudine delle parole non manca la colpa, ma chi frena le sue labbra è prudente. Leggo ancora in Proverbi 17, versetti 27 e 28. Chi modera le sue parole possiede la scienza, e chi ha lo spirito calmo è un uomo prudente. Anche lo stolto, quando tace, passa per saggio. Chi tiene chiuse le labbra è un uomo intelligente. Quando ero un bambino, ero molto timido. Ricordo molto bene quanta difficoltà avevo anche solo a salutare le persone. Ero capace di stare per ore in una stanza in mezzo ad altri, senza spiccicare una parola. È incredibile come le persone con carattere espansivo tendano a stigmatizzare i timidi con le battute più scontate. Stai un po' zitto, parli sempre tu, mi hai fatto una testa così. Chi ha avuto questo problema può capire quanto fosse fastidioso essere preso in giro in questo modo. L'effetto di quelle battute era quello di farmi sentire come se a me mancasse qualcosa, che gli altri invece avevano, come se ci fosse qualcosa di intrinsecamente sbagliato nel mio carattere. Insomma, mi sembrava che il mondo fosse in mano agli estroversi e che noi, poveri introversi, fossimo relegati ad un ruolo di secondo piano. Crescendo ho cominciato ad aprirmi di più e, guarda un po', non vado a scoprire che più parole si dicono e più si rischia di fare del male a qualcuno, di offendere qualcun altro, di dire cose inesatte. Quante volte negli ultimi anni mi sono ritrovato a chiedermi perché non sono stato zitto? Ho sperimentato che ciò che dicono questi versi è assolutamente vero. Non si dovrebbe mai proferire delle parole con leggerezza. La parola è una facoltà straordinaria, con la quale possiamo fare del bene a qualcuno, ma in un attimo possiamo anche fare danni ingenti. Più parole proferiamo, più rischiamo di renderci colpevoli verso qualcuno. I versi che abbiamo letto ci invitano ad essere saggi, moderando le nostre parole, e nel tempo mi hanno fatto comprendere che la mia timidezza è stata in realtà un vantaggio in molte circostanze. Infatti, se io, che sono di poche parole, sono comunque riuscito a fare danni con la lingua, quanto è difficile per chi è più estroverso riuscire ad evitarlo. Se anche tu hai un carattere introverso, può consolarti scoprire che essere di poche parole non è un difetto. Quando gli altri ti prendono in giro per il tuo silenzio, non ti curar di loro, lasciali parlare, a loro piace fare così. La tua prudenza nell'aprire la bocca ti eviterà molti problemi. Non disprezzare il tuo carattere, ma ringrazia Dio che ti ha fatto così. Hai ricevuto la grazia di saper frenare le tue labbra. A volte è meglio tacere. Persino uno sciocco passa per saggio quando tace. Naturalmente ci sono momenti in cui dobbiamo parlare, e guai a noi se non lo facciamo. Ad esempio, la timidezza non deve diventare un ostacolo che ci impedisca di testimoniare della nostra fede. Il Signore ci aiuterà a trovare il coraggio quando sarà necessario che apriamo la nostra bocca. Ad esempio, io non avrei mai pensato di poter essere capace di parlare anche di fronte ad un grande pubblico, eppure mi è capitato parecchie volte e il Signore mi ha sempre sostenuto. Impariamo tutti, introversi ed estroversi, a ponderare le nostre parole e a parlare con cognizione di causa. Poche parole ben spese varranno più di molte parole a vanvera.